Quindi, Roberto, se vuoi dire due parole sul corso che si sta facendo anche con la città metropolitana, e quindi cosa si aspettano o ci aspettiamo noi da loro. Allora, io diciamo che concordo con quello che diceva Francesca, che il progetto nel quale siamo imbarcati è di una difficoltà estrema e della quale non mi riesce ad avvisare appieno i rischi, tutto quello che può comportare. Non più tardi di sabato abbiamo presentato questo progetto pubblicamente con un evento a Ponta Ema, in un'altra sede del popolo del territorio, quindi diciamo siamo usciti allo scoperto. E ieri lo stesso progetto è stato inviato formalmente via PEC in città metropolitana con l'intento di stimolare appunto l'inizio del tavolo di coprogettazione. Dunque, questo è un progetto estremamente. Siamo arrivati a un punto qualitativo, nel senso che ci abbiamo messo un sacco di idee, abbiamo cercato di miscelarle in modo che facciano una cosa abbastanza omogenea, però poi, come dicevano giustamente i miei illustri predecessori, al tavolo di progettazione bisogna stringere sul concreto. Quindi le due domande ci assillano e che hanno dato spunto a questa serie di autoformazione sono appunto quelle che diceva Jason, cioè sulla sostenibilità economica, non solo di ogni attività che verrà, potrà essere fatta a Mondeggi, ma anche di tutto l'insieme. E soprattutto come tante realtà territoriali sono unite in questa crociata utopica, come possono stare formalmente e giuridicamente insieme in modo da poter costituire un unico interlocutore verso la città metropolitana, che quello le vuole, perché lei non vuole assolutamente sentir parlare 25 associazioni, ma vuole un referente. Detto questo, velocemente, noi è da la primavera che stiamo parlando alla città metropolitana, ci siamo accorti che la città metropolitana nelle sue teste ha solamente un obiettivo chiaro, preciso e unico: prendere i soldi del PNRR e spenderli. Del resto non interessa nulla. Per quanto riguarda la parte agricola non hanno nessunissima idea. E già dal primo giorno che li vedemmo ci dissero: sì, ma tanto lavorate voi la parte agricola, noi non ci può fregare di meno. E non avevamo pensato che per quella parte agricola ci vogliono persone che devono abitare lì, ci vogliono macchine. Quindi insomma cioè, si parla contro il nulla, con il nulla assoluto è più difficile che parlare con una idea contraria. Perché dicono tutti di sì, oppure dicono: sì, va bene, sentiremo i progettisti e poi vi facciamo sapere. Per cui vediamo, da un certo punto di vista diciamo che tutte le diffidenze che noi avevamo, giustamente dopo 8 anni di militanza e di avversione, sono vanificate, perché comunque loro non ci hanno riconosciuto politicamente, ma ci hanno riconosciuto strumentalmente a spendere i soldi. Questo è. Ultima cosa, come tutti i lavori del PNRR, il cantiere Mondeggi dovrà finire il 30 giugno 2026, probabilmente cominciano a luglio, ma lunedì, che li abbiamo visti per l'ultima volta, hanno cominciato a paventare la possibilità di qualche ritardo, perché sono, come dire, un po' in ritardo anche loro. Per cui, insomma, se non è luglio sarà agosto, comunque insomma, entro l'estate, inizio dell'autunno, cominciano a saltare i cantieri. Questo è, per ora io non direi altro, tanto io voglio sentire Perfetto, gli allora spunti che possono arrivare. grazie mille. Bene, non so se fare quantomeno un giro per far capire chi siamo qui, giusto il nome e a che cosa.